professore. E vabbè, allora tu c'hai l'acqua a tempo, non c'è veterinario, c'è già buona anche l'acqua di tempo, allora. Ehi, vabbè, lo sai cos'è? È che sono rane con l'acqua. E vabbè, poi ti rimani e ti rivendi. E anche facciamo una chiamata generale sul 21, attenzione, canale 21, chi vuole entrare, ecco la buonasera avanti. Uffano della visita tutta la greppa, il trio dell'Apocalisse, Natalino, Gianni, Pierpaolo, Antonio e poi chi c'era, vabbè, gli altri un po' di meno. Questi qua, i quattro dell'Apocalisse, non i tre. Ma facciamo qualcosa, non so. E magari Gianni sta ancora lavorando perché adesso col fatto delle... Ah no, scusa, Gianni non è rientrato forse, così? No, è negativo, Gianni ancora non è rientrato, capito? Quelle sono le donne, tutti quanti, se ne sono andati maledetti. Vabbè, io ho ritirato su la provincissima. Che dice che ti vedo la peronetta. Stai neanche il circo vizioso, non è così, però lo stanno ascoltando, mia nonetta, io lo so, me. Sì, io lo so anch'io, sono tutti orecchi, ma fanno gli orecchi di parco. Tanto dopo dico, non ti abbiamo sentito, io ti ho sentito. Entratelo entrare, non ti nascondere dietro il microfono. C'è un vento fuori, ma meglio ieri notte. No, ieri notte guarda la lucinata, Antonio, aggiunti no che mi rivala tutto, ero preoccupato con le antenne. Sì, ha fatto una serie di cose ieri notte, tipo un vento mulinello. Vento caldo, sono entrato, poi è cominciato questo vento forte, da una parte all'altra, e ho detto questo che insomma l'aria è passata. Ma quasi mezz'ora, una mezz'ora buona. Allora, stavo leggendo le previsioni su internet di dopodomani, alle 5 del pomeriggio ci sono 18 gradi, lo so che vuol dire 18 gradi, se ci sono una perturbazione fredda su sedi di finimondo. Io ce ne avevo 20, io non c'era vento caldo, quando metto si muove che c'è vento caldo, ma non può essere, se no non è venuto il giorno di mai. Io ci sono questo vento caldo, sempre ma forte me. Ma tieni presente che domenica mattina nei monti di Usilo a fianco, quelli di Monaria, quelli altri che sono 800 metri, era completamente bianco, completamente bianco. Era una cosa bella in Trentino Alto Adige. Non so che ne ricordo, di Usilo, non so, un amico mio sono salito un altro giorno, mentre ha fatto un bel rilevo, ha fatto. Ehi, avanti Falca. Ehi, caparoccio, comunque quel vento caldo è il vento scirocco, E vabbè, perché da sud ce l'ho con il breccio, non la giuvi tu, però è sempre da sud, uno e l'altro. Ah, quello sì, ma l'ha toccato, in effetti ha fatto quella... un po' di quel vento caldo, poi tutto quanto gira, è iniziato il vento freddo, qua sta tutto a mare, tra l'altro è acqua pura a fare. E io, chi era fatto col bip? Tu e frate? Io? Ah no, mi sembrava Luca, invece avete lo stesso bip, no, niente, come non detto. Ma guarda. E tu, Antonio, dove ti smatti domani? Forse sono nel paese dei Balucchi, ma non sei io. Il paese dei Balucchi? E lì è il paese dei Balucchi. Caussi. Passa per Caussi domani. Sì, abita da fare da lì. E quindi forse mai notte sono là. A Bavedimmo. Di mangiare gratis, così è. Sì, ma si sente, ma lì la limitazione c'è il paracito di Laus. C'è la magnetica, col 2009, quindi. E può sentare, ma tu non ti senti solo mentre, se no, ti può fare pure a me. E aspetta un attimo, forse c'è qualcuno. Ho sentito qualcuno piccolino. Avanti sul canale 21 che vuole entrare. Bruno, forse qualche cosa di propagazione, come non detto. Sembra che siano, ci manchi tutti oggi, non si intende nessuno, o sono tutti insieme, girando. Molto probabilmente lo giro, in girella. Oh, c'è la dire che si occupava, si è mancato per prendere roba, per vedere roba. Vera Roma, mi sono messo da casa mia, dove abito io, arrivare giù a Predanieta, 20 minuti di macchina, più di 20 minuti perché non ero neanche arrivata a Citamercato. Sono uscito alle 7:30, sono arrivata a meno 10, ero alla Bretellina, ero alla Terroccia. E dovevo andare via a Città Marca. assurdo, non si può camminare, non si può andare più, no? No, ma perché si può andare lì che c'è una crisi, la gente non compra. Se tu entri nella città mercato, c'è cioè la gente con i carrelli pieni di spesa. Una cosa allucinante, media volta non poteva neanche camminare. Tutti i componenti vendi acquistando, non era solo a vedere come capita. C'era la gente che stava comprando, le carte erano piene. Sì, dove non ci sono nessuno già, ma dove che crisi, eh? Sì, lo so. Avanti, attorno. Tredicesimi partono subito, io avevo subito mangiato tutti in salsiccia. Tredicesimi e quattordicesimi pure va parte. Allora, poi si fa quando c'è la mi si è comprato formaggio, salsiccia, vino, birra, bistecche, pane, di tutto avevo comprato, che mi alimentavo. E lei non avevo comprato, l'ho dovuto comprare qua. Adesso, purtroppo il consumismo è insomma. Poi alla fine noi auguriamoci che non succeda mai niente di strano, tipo come è successo ai nostri padri durante la guerra, che noi siamo abituati solo a stare bene, a avere tutto. Tu fai conto che succede la cosa di strano, come si fa a ritornare indietro gente che è abituata a avere tutti i giorni il succo di frutta, l'aranciata, i ghidu, il zacco, eccetera eccetera. Sì, andiamo all'isola dei famosi senza nulla, e non lo so, ma la prima, ma la carta la benzina l'hanno preso all'isola dei famosi? Non lo so, io sono contento se ci va, ma come vuole rigare un po' di questi gazzoni, di questi montatini, di questi VIP. Io spero che lo chiamino, ma bisogna vedere se lo fanno all'isola dei famosi, ma sai come lo succede, no? L'altra volta avevano fatto il coso dell'India, non l'avevano fatto perché c'erano su che cosa mi chiamava la guerra, no? Tutta la carne qualche era. Bisogna vedere se lo organizzano, ci sono tante cose adesso anche. Sì, vabbè. Io sono contento. Io sono convinto pure che se entra, se lui entra dentro lì, si di addosso non glieli mette nessuno. Poi. Quello gli ha abituato a stare nel carcere, veniva rispettato, era una persona rispettabile, come dicono i mafiosi. Non è così, Falcone? Positivo, va bene già. Ma non tocca, chissà, chi arrivi con i cuffietti, in chi guarda il pezzo mentre se ti avvicini, vado a casa a me, lo dice tanto, di là poi dovrei dormire, se non ce la faccio con le mani già ti faccio arrangere dopo quando te dormi. Va bene, ma se lo chiamano qua, penso si confondi bene, se no un po' stanno a portarlo via. No, ma io l'ho reputato sempre una persona, uno di quei delinquenti, cosiddetti delinquenti, banditi e gentiluomini, non era di chi si bastardi, quelli che lui ammazzano la gente per i soldi, lui almeno quello non l'ha mai fatto. Diciamo più che altro per bisogno, diciamo bisogno, per quello che si può chiamare bisogno per un delinquente, però rispetto a certe altre persone che pure li vedi liberi, che vanno a stuprare le persone, a rapire, a chi da chi ne ha tagliato le mani, non l'hai vista quella donna anziana. Bandito e tutto il genere diverso di quelli che adesso si considerano banditi e poi no? Tutti mafiosi. Banditi di vecchio stampo, dai, ai tempi di Robin Hood, allora questa c'è una massa di mamma, me la sciampa. Vai a come? Non ormai, le cose stavano migliorando. Allora vi giochi qui dell'est, bene, ne sta ammazza, ne se ne dovrà in chibi. Se non ne stanno nulla, anche. Perché sono pronti, sai quanti ce ne sono al centro storico? Che vanno si pigliano i si fanno il giro, si prendono pane gratis, la carne e tutto. E poi vedi il marito, le vengo qui dalla mattina alla sera lì, senza patente, senza niente, senza niente, fallo tu, se ci riesci. Ti ridano anche la mensilità, pure i soldi, lo stipendio, devo pure pagare questi di Roma, io non sono razzista, però meglio che se ne tornano a casa loro, i soldi li diamo ai nostri poveri, non a loro, che noi abbiamo, non ne hanno bisogno. Vai a travagliare, diamoli proprio a chi ne ha bisogno, a quei poveri pensionati che vivono con 300-400 euro al mese, diamoli a quelli dei soldi. O gli dai, non di quei soldi, gli dai la possibilità di acquistare la merce a prezzi ragionevoli. Dai. Ci sono i pattugli qui in Sardegna, si fanno drogi, si fanno romini. Lo stipendio leggero è 1200-1400 euro assicurati, ma comunque ti ripiano i romini romaniani. E già lo credo. E perché le badanti? Cosa abitano? Lo sai tu? Sì, un bel vino. Tanti vanno tutti fuori. Come i brasiliani, come gli spagnoli, come tutti. Quello che guadagna lo mandano alla famiglia. Finché durano, prima che ne rubino tutto dentro a casa. Ah, se quello è vero. Sì, ci sono quelle che mi hanno pagato il marito. Ma sa fare un ciucciucciù, ciucciucciù. Che le fanno? Purtroppo ce ne sono tante di situazioni del genere, vabbè, per il paese, diciamo, quelli che si fanno prendere in giro da queste signorine qua, almeno fatele tranquille, poi non ti fa prendere in giro, non gli interpare niente, non gli regalare niente, cioè il minimo indispensabile, perché la maggior parte di queste ragazze che vengono qua trovano il pollo, poi gliene mangiare tutto e se ne va. Sì, già lo so. Vedi, fa anche un giorno vai in macelleria a piene pose, domani. Questa vita, Uiaiaia. Ma hai fatto la torre del falchetto a me? Ah, passi tu qua, lì. Forza fa casa, passati il falchetto. Ma è tu sei più aperto, ma c'è la zona sua. Cosa dico io dalle tue parti? Prova. 9.20. Ti davo adesso qualche di più, vi consiglio che siamo qui. Ma cos'è? È un po' maluccio quello lì. Ah, sì, no, non è 9.20, come senza giusto giusto, sì. Lui arriva a Santiago Lope. Lui arriva a Santiago Lope, allora non c'è, no, pensavo che arrivasse a segnare almeno 9.20. No, non ci arriva a fare per quello 9.20, arrivi a fare tu, sono per terra qua. Quindi, a voglia. Il parcheggio è piccolo, ma comprensivo, L'importante è arrivare nel parcheggio e non Falcone, non è così, Antone? Capra, comunque sono uno dei, io penso di essere uno dei più forti a arrivare a Muros, perché è proprio lui un po' più forte e forte, in confronto a quella tragedia che c'è qui a Sassari, e sono con la terra avanti, io. Ma io te l'ho detto, Antone, se tu ti piatti la manta, ma tu fai un bel di danno, perché tu sei completamente aperto, c'era di fronte il muro, se cosa vuoi fare? Anche a me mi ha portato forte, comunque, mi ha detto di arrivare a fondo scala, non vi credo, però mi dice, mi stai arrivando a fondo scala. Arrivi a fondo scala, sì, dritto. Tanti muro se è vicino, vedi proprio in pieno il coso, c'è la terra abbastanza alta, tu, si libera, ho capito. E non c'è da abitare solo la preghiera, solo la preghiera si è sfasciato anche la parete da due, perché via la preghiera è poco pompa. Scusa, non sono messo quello che conosci tu dall'alberghiero, il maracchino su? C'è la macchina, non l'hai visto, c'era anche la macchina rossa. Sì, l'antenna, ma io non l'ho mai visto col baracchino, ma è mai entrato? Sì, che entrava. Quando lo trovo di occhiera, vabbè, senza. Se siete per la terra, che la gran presa è quella nel circolo. Per casa sua, così parla da lì almeno. No, non è che me la fate, la terra lo stavo solo chiedendo, io non l'ho mai sentito. Come si chiama il denominativo? Mario Centrionale. Eccezionale, simpatico, ma no, non l'ho mai sentito io. A che ora è entrato? Ciao. Per certe famiglie molte volte trovi la moglie, i figlioli, tutto quanto. Anche se come in baracchino pochissime ce ne sono. Mi c'è qualche volta è stata Teresa, che era l'altra Maria Luisa, poi c'era Coso, tra l'altro come si chiama quella ragazza? Che c'era il marito, come si chiama? Perché c'è stata tutto l'anno scorso. Cosa è stata Onda di Ricuzzi, poi sparita. Da quella trama fanno perché ciao, non mi viene la parola, non Maria, come si chiama? Tra quelli della ragazza che poi c'erano le bambine piccoline che entrava quasi tutti i giorni, se il marito si chiama, non me ne ammetto, proprio guarda un voto di meno. Ehi, ha detto bene, ciao Peppa, lì te fanno riuscire a ricordarmi il nome. Sì, c'è sentato un video di mattina. Ma sempre su 5, su 21 a volte. Ma io, anzi sbaglio, l'ho sentita quando è finito l'entrata, un attimino acceso, che stava cercando il marito un attimino, ha detto se l'avevamo sentito e basta. Però prima quasi tutti i giorni l'ha sentito. poi chi c'era dei ragazzi? Quella ombra che hai detto tu, poi chi c'entra? Ma... non ce n'era un'altra, vabbè, quella qualche volta. L'altro giorno ho pensato a una tipa che me l'ha spaventata a Gianni, ha fatto assunzare, ma così per qua. E l'altro giorno è entrata una ragazza o donna, non so se ragazza o ragazzina, e Gianni me l'ha spaventata, la giorno non è più entrata. E questa l'hanno risultata. L'hanno risultata. E allora, i soliti. I soliti sono feti. No, no, quando c'è io non l'hanno risultata. Lei ha chiesto cosa bisognava fare per avere per preparare il baracchino, se si poteva parlare, e già le ha detto no, bisogna prendere la concessione, e lei ha detto e se non la prendo, ehi, vengono a casa tua, non so cosa ti fanno, ti mettono 1200 euro di multa, che te la mini se la suda tutta, non la dubbio. No, dopo c'è entrata, soltanto che c'è stata una persona, soprattutto la volta scappare con parolacce o cose. Parolacce, ha detto, perché hai detto imbecille? Nel malacchino se non la conosci una persona, e quella è la cosa più brutta, ma tantomeno una donna, ma per scherzare. Scusa, se inizi così ora, se inizi il caso mio che te lo faccio prendere io il microfono in mano, scusa, una testa magari vuole iniziare e che cosa sente una persona così, si ricorda le nocche, dice se ne è andata, come non l'ha più intesa, ragazzi. Ah, quella è proprio, devi essere proprio un poverino, uno che parla così è un poverino, secondo me. Senti persone nuove, è sempre piacevole, se soprattutto se sono persone femminili, visto che siamo tutti maschi, no? Molte volte fa anche piacere che magari moduli anche i termini se c'è una persona femminile, molte volte ti prima di parlare di certe cose ci sta un po' più a te. Ma diciamo che se per caso mollasse da tanto tempo e c'è un pochettino di confidenza, come è successo con altre persone, magari dai la battutina così un po' piccante, però andare le parole esplicite non mi sembra il caso. Conferma anche io, no, vabbè, diciamo per... Dai, c'è anche Beppa, c'è Antonello e Falchetto, avanti per Falchetto che era a riposo, avanti Falchetto. Falchetto è entrato nel nido, avanti Antonello. Falchetto sta mangiando senz'altro, un cucciolo, dei fondi. No, veramente mi stava pisolando. Pisolando già adesso, sì, cazzo. Stanco, Antonio, stanco, io sono così, ma non l'ho fatto a pulci, ui. Esagerato. Capacata, ma non l'avete rilanciata, vai, dai, ma con chi se va giù? Giacomo, e c'è Falchetto? L'avete rilanciato. Ho chiamato, la faccio mettere la Falchetto, non è il questo, sarà rientrato nel nido. No, mi stanno, veramente appisolando, Te lo fa come te Gianni, noi parlando un'ora, Gianni, di poi non si tende più Gianni, e poi dopo 10 minuti si scendava. Infatti Gianni Drome lo chiamava, Gianni Drome. È che non c'è adesso, che non interviene, lui sta ascoltando, e lui si per fa. No, non c'è, no. Lui sta facendo le orecchie di porco, lui è Natalino, quelli sono tutti e due imboscati. Sì, fatto, lo conto. E ci sono bisogno della cinquantina. Luci. Che hai fatto che la fine è 54, 50 di quanto ne sei arrivato? Pochi, pochi. 43. A un'anca. Ma si come in cosa? Ma io guarda, adesso non è che ti abbia visto guardarti esattamente all'età, però io penso tu una cinquantina che ce li hai, buoni. All'incirca. Poi non diciamo di più o di meno, ma siamo intorno a quella cifra lì. Dobbiamo facciamo forse di chi sta frequenta è Natalino, mi pare, no? Natalino, mi accorgo se passa a dire dell'età e spucca subito voi. Natalino c'era 56. Come che purtroppo queste persone non sono libero di non aver passato una bella vita, ecco. E allora sì che ci sono dei rimpianti. Ma con loro siamo stati bene, se rimpianti siamo messi, io sono felice di aver superato quell'età. Sì, sì, anche io, eh. Però io sono di quelli che una vita non mi basterebbe. Di carattere che sono, vogliono fare tanto loro, quelli del solo quello, io vorrei fare tante cose, ci vorrebbe un'altra persona uguale alla mia per fare metà di quelle cose che vorrei fare, fatevi conto, talmente sono, mi piace vivere nella vita, poi diciamo non dipende da noi, a chi domani magari ci ricorda e che ti farà un colpo, non dipende da noi, per cui io cerco di viverla giorno per giorno, la vita nel migliore dei modi. Vedi, è già bello sentire uno che ci vuole una vita per vivere tutto, è già una cosa bella, vuol dire che hai passato, diciamo, le tacche con l'esperienza che hai adesso, tutto quanto che ti sono andate tutte bene, ecco, e quindi è già positivo quello, capito? Sì, ho avuto tante belle soddisfazioni, delusioni che mi sono servite come esperienza di tutto, diciamo, non mi posso lamentare. Aspetta, facciamo riprendere anche gli altri due, avanti qualche, se no poi si addormenta, avanti qualche, per me rimane già dormito, dai, io sveglia qualche. Ah, già sono sveglio, ma io adesso faccio un po' di carichina, vedrai e rimango più allerta. Così, sì, vediamo se Antonello c'è ancora, Antonello ci sei ancora. Cazzo, quando l'avevamo domandato l'età è fuggito il coso, Antonio. Allora. Come te le preme, si vergogna, allora. Allora. Vabbè, faccio un attimo di bianco e riprendo su di fare, prendete per farla. Ehi, allora, buon tutto, però non so cosa stai facendo, comunque, buon tutto quello che stai facendo, dai. Avanti per... Sta passando. No, un bicchiere d'acqua sto prendendo. Ah, ma sto andando a mandigare. No, no, no. Ah, buona carica. Ia. Ho sentito una parolaccia da te. L'acqua no. Non sia mai, no, qua non vedo. Mino mette in barca a me, va. No. Arrosso. Tu sì. La pagata. Ma quindi se ti dai dello bianco non lo bidi? No, negativo, rosso sempre. Maniera rossa, così. Non mi è entrato. Hai una ricomincia a sentire quella risata lì, aiuto. Che? Che portatista di qua? Non l'hai sentito? Io non sono stato nessuno qua. Ah, senti. Santiago Albero, niente. Perché qua Romeo, tu non lo senti lì, ma io glielo sento. Non ti arriva una cappella. Qua c'ho il quaderno bassissimo, ma non sento nessuno io. Sì, io lo credo, ma è no che con una radio del Kaiser, metto in video. Non lo so. E come non si è sentito doppio rumore natalino? Hai sentito che... No. Ho detto come non si sono sentiti Gianni e Natalino. Ehi, sono in giro. No, normalmente c'hanno il baracchino in macchina, non metti mai. O sono imboscati con qualche regretta. No, ci fanno regretta, mi piaccio. Stanno troppo poco qua, stanno imbottendo, mi scatto qua, guardate. Ah, così. E poi per me non viene neanche mai più bianco, ci sono le tipe dove stavano a prendere niente a quelle giornate, già su quella l'hanno senza passare. Ah, guarda, no, non me ne intendo, non so se io a quella parte, mi dico ci passo qualche volta al giorno, ma di notte no, non ne so neanche. No, sto solo dicendo così, infatti, no, non ne ho più idea. Una volta quando ero ragazzino si metteva in via Levante e via 25 aprile, allora non so come ha indicato. Ho sentito un fischio, forse era quello l'innesco, come gli ha detto qui che c'è l'innesto, poi ha mollato. Non si può passare, no? È possibile anche sollevarlo, perché guarda così. No, non lo faccio, no, è qua sotto, non lo faccio. Allora, se è troppo vicino non possiamo fare niente. L'unico che l'ho fatta è Antonio, così. Prova a andare a 19 alfa, vabbè. Quanto è? Non lo sai la frequenza. Me la ricordo, dimmi. Sì, non me la metto mai chi, ma come arrivo con un voglio da anni, è frequente. 165 può essere. Quanto? 165. Scusa un attimino, riprovo la cosa. Però, il tuo è Monaco, no? Subobanco, la locura è difficile.